Sicuramente tutti conosciamo molto bene il detto che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. È un detto comune, famoso, così anche antico, storico. Nella letteratura italiana noi troviamo questo detto citato da Manzoni, Alessandro Manzoni, nell'opera che precede I Promessi Sposi. Lui scrive così: dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei. Ma è ben più antico di Alessandro Manzoni e dei suoi scritti. Questo detto noi lo troviamo in Corinti, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 33, è l'Apostolo Paolo che dice: non lasciatevi ingannare, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Da una parte hai dei buoni costumi, hai una buona condotta, hai buoni principi, dall'altra hai delle cattive compagnie che possono corrompere tutto questo. E l'Apostolo Paolo, quello che fa in Corinzi è citare straordinariamente, perché non troviamo altre citazioni, di un drammaturgo greco, un pagano di nome Menandro. E quindi l'Apostolo Paolo dice: ce l'avete nei vostri detti popolari. È così chiara questa cosa, è così evidente che non bisogna neanche ricorrere a una saggezza divina per comprenderlo. Lo comprendiamo tutti: vai con lo stolto e sarai stolto, vai col saggio e sarai saggio. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è solo l'Apostolo Paolo a farlo, ma è ancora più antico. Se questa lettera l'Apostolo Paolo l'ha scritta nei primi secoli dopo Cristo, noi possiamo andare, pensate un po', a 700 anni prima di Cristo, negli scritti dell'uomo più saggio che sia mai esistito, Salomone, e nei Proverbi, Proverbi 13, versetto 20, leggiamo questo: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Quello che Salomone sta dicendo è che non dobbiamo nascere necessariamente saggi, possiamo diventarlo. Non è una cosa che puoi avere nell'indole, no? Come lui l'ha avuta, come dono da parte di Dio. Puoi diventare saggio anche se sei stolto. Puoi diventare saggio, e questo è possibile se frequenti dei saggi. Come? Puoi nascere saggio, puoi nascere di sani principi e diventare, dice Salomone, cattivo. Cattivo. Puoi crescere in una famiglia sana, di sani principi, dove ti è stata data una buona educazione, dove sei stato portato a riflettere, a considerare i principi della parola di Dio, sei stato in una famiglia che pregava, che leggeva, eppure cattive compagnie corrompono i buoni costumi, o, come dice Salomone, il compagno degli insensati diventa cattivo. Chi vuoi diventare? Chi vuoi essere? In un anno nel quale ci siamo dati un obiettivo, o meglio il Signore ci ha rivolti un obiettivo come Chiesa, e dove la nostra preghiera è: Signore, come te, vogliamo essere come te, vogliamo assomigliare a te nella condotta, nelle emozioni che viviamo, nell'interazione, nelle parole, nelle scelte, vogliamo essere più come te, Cristo Gesù. Nel fare questa preghiera però dobbiamo renderci conto che per diventare come Cristo dobbiamo stare con Cristo. Dobbiamo avere la compagnia di Cristo nella nostra vita, perché non è una scelta che vivi rimanendo influenzato da tutte le influenze che ci sono in questo mondo. È una scelta che deve partire necessariamente dallo scegliere da chi farti influenzare. E se gli antichi hanno detto questi detti, forse oggi noi potremmo rielaborare questo detto e dire: dimmi chi segui su Facebook, su Instagram, su TikTok. Dimmi chi segui e ti dirò chi sei. Non a caso si chiamano influencer. Sono persone che producono dei contenuti al fine di influenzarci. E noi ci ritroviamo, volenti o nolenti, e non mi sto rivolgendo solo alla nuova generazione, ai giovani, no? Perché poi pensiamo, no, che queste influenze, questi social, li vivono solo i più giovani. Quando è straordinario vedere come ci siamo tutti aggiornati. Tutti ci siamo aggiornati e siamo tutti sui social. Forse se sei un boomer, ovvero una persona nata prima del 1981, allora, giusto? Dico bene, del 1980, per salvare Antonio che del 1980 vuole essere un millennial, puoi essere un boomer, eppure magari forse non scegli TikTok, non scegli Instagram, ma siete su Facebook e io lo so. E tutti noi lo sappiamo. E sei su Facebook, un tempo straordinario di tempo, un tempo della tua giornata straordinario, e sei influenzato. Dimmi chi segui e ti dirò chi sei, perché l'influenza è qualcosa che non prende solo alcuni, siamo tutti influenzabili e tutti ci lasciamo influenzare. Per questo devi stare attento ai giornali che leggi, perché sai che c'è una determinata direzione che certi giornali hanno rispetto ad altri. E devi stare attento ad ascoltare anche addirittura determinate prediche, perché ci può essere una certa direzione che alcuni predicatori hanno nella loro predica. E allora dobbiamo essere saggi e discernere, e dobbiamo comprendere che l'influenza più grande e necessaria nella nostra vita è l'influenza di Dio in persona attraverso la sua parola. Siete d'accordo con me? Amen. Salmo 1 dice, e lo conosciamo molto bene, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Chi ti sta consigliando? Che non si ferma nella via dei peccatori. Che tipologia di persone sono attorno a te? Né si siede in compagnia degli schernitori. Ora badate ai termini, ai verbi che ci sono. Cammina, si ferma, si siede. Non vedete una strategia diabolica? Dio vuole che noi camminiamo, addirittura la parola di Dio ci invita a correre, c'è una gara che noi dobbiamo correre, Dio è per l'azione nelle nostre vite ed è un'azione di trasformazione, è un'azione di progresso, è un'azione di conquista, è un'azione che ti porta ad avanzare di gloria in gloria. C'è il nemico che viene con una strategia inversa, che dal camminare vuole fermarti e dal fermarti vuole farti sedere. E seduto ti vuole mantenere, fermo, inabile di vivere, inabilitato a vivere la vita piena che invece il Signore ha in mente per noi. E allora se oggi ti ritrovi che guardando alla tua vita vedi qualcosa di stagnante, di qualcosa che si è fossilizzato, se dentro di te c'è una parte che senti essere morta, c'è una bella notizia per te. Il Signore vuole farti alzare, vuole farti camminare, anzi vuole portarti a correre. E l'inversione di questa azione dipende dalle compagnie che scegli. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei e chi diventerai. Il Salmo va avanti con un ma meraviglioso, dice: ma, versetto 2, il cui diletto è nella legge del Signore. Quindi beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli schernitori, ma, e qui c'è un'alternativa che ci viene proposta. E io su questa alternativa voglio soffermarmi. In questo messaggio non voglio tanto ricalcare, sottolineare quanto è necessario che tu smetta di seguire determinate persone. Spero che sia abbastanza chiaro, l'abbiamo detto sufficientemente e la Bibbia lo dice continuamente, ma io quello che voglio inculcare ciascuno di noi, incoraggiare ciascuno di noi di fare è vivere appieno questo ma, questa alternativa di vita. Ma, dice, il cui diletto è appagamento, il cui piacere è un altro sinonimo di diletto, il cui piacere, il cui gusto è la legge dell'Eterno. E su di essa medita giorno e notte. Giorno e notte. Hai un diletto, hai un piacere, hai un appagamento, hai una vita piena. Ti alzi, corri, cammini, avanzi, progredisci perché sei appagato nella legge del Signore. La migliore compagnia per la tua vita, giorno e notte, è Dio. La migliore compagnia per le tue scelte di giorno e di notte è Dio. Il miglior consiglio che tu puoi ottenere giorno e di notte è sempre e solo Dio. E Lui è della sua presenza la cosa più importante della tua vita. E se tu vivi questo, sei beato. Cosa aggiunge questo salmo? Dice: egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Non è la vita che vogliamo vivere, non è una vita che tutti desideriamo. Cioè, qualsiasi sia la stagione, viene la stagione bella e stiamo vigorosi, viene la stagione brutta, secca, arida e stiamo comunque bene, il fogliame non appassisce e portiamo frutto al momento debito, nella stagione opportuna porti frutto. Dio vuole che tu porti frutto. Gesù lo sottolinea anche in Giovanni 15: affinché portiate molto frutto, dimorate in me. È sempre quello il principio, è molto semplice. Ora, io non mi ritengo una persona, un uomo di preghiera. Io non mi ritengo un uomo di meditazione, di contemplazione. Non sono arrivato. Voglio tanto crescere, ancora di più, nella preghiera, nel digiuno, nel gustare ancora di più la presenza di Dio. Non sono quello che vorrei essere, però nella mia esperienza so per certo che Dio c'è. Dio c'è sempre, giorno e notte, qualsiasi stagione. Lui c'è sempre. Io so per certo che Lui ascolta. E io so per certo che Lui risponde. E vi posso testimoniare con certezza che ogni qualvolta io mi fermo per stare alla presenza di Dio, io ne esco trasformato. Il buio della mia vita viene tramutato in luce. I miei pensieri vengono riallineati, le mie emozioni vengono calmate, è tutto pace, è tutto gioia, è tutto amore quello che si sperimenta alla presenza di Dio, è la cosa più importante della nostra vita, è da lì che dipende tutto. E allora, se il tuo desiderio è essere come Gesù, allora stai con Gesù. Che sia Lui il tuo influencer, che sia Lui colui che ti parla, colui che ti ascolta, colui col quale tu spendi del tempo. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. E le persone, nel vedere quello che siamo, ci domanderanno: ma tu con chi vai? Tu con chi te la fai? Ma tu che droghe usi? Qual è il tuo segreto di giovinezza, di bellezza, di stabilità. Non è vero, non è quello che ci chiedono, è quello che ci chiedono. Non abbiamo una droga da offrire, non abbiamo una sostanza, abbiamo una persona. Ed è Cristo Gesù, il quale per grazia è morto per noi. Ha pagato il prezzo dei nostri peccati, delle nostre colpe, del nostro seguire peccatori e ascoltare consigli di empi e sederci in compagnia di schernitori. Lui è morto per questo, non per giudicarci del nostro comportamento, ma per liberarci da questo modo di fare, da questa vita che porta morte, che ci fa sedere, per rialzarci e per farci vivere appieno. È bellissimo il canto che abbiamo cantato. Lui cambia il lutto in danza, ceneri in bellezza. Lui cambia tombe in giardini. Sono parole poetiche bellissime, ma le vivi veramente quando le canti, perché questo è vero per la tua vita e per la mia vita. Noi siamo beati perché abbiamo la possibilità di vivere la presenza di Dio nelle nostre giornate. Dio è reale. Dio vive e ti ascolta. Lui ti accoglie e vuole trasformarti. Voglio concludere con un passo straordinario, di straordinaria bellezza, di straordinario significato, di un miracolo indescrivibile, unico nel suo genere. Non ne troviamo altri nella Bibbia come questo. Parlo dell'intimità di Mosè con Dio. Mosè che è già salito sul monte Sinai, ha già avuto le tavole dei comandamenti, è sceso per trovare un popolo ribelle e idolatra e dopo 40 giorni di digiuno e di preghiera si è ritrovato a sentirsi smarrito, non più in una giusta compagnia, ma nella compagnia sbagliata. Però si rifugia di nuovo, chiamato da Dio sul monte. Oh, forse qualcuno Dio lo sta chiamando questa mattina a salire sul monte, a distanziarsi da tutte le compagnie, da tutti i rumori, da tutte le voci, se necessario anche dal popolo di Dio stesso, per assimilare il beneficio del rapporto più importante, perché prima della Chiesa, ascoltatemi bene, viene Dio. Non è la Chiesa che può sostituire Dio, ma è la Chiesa che funziona bene quando Dio è presente. Quando noi ci riuniamo qui, abbiamo vissuto una settimana la presenza sua, beh, questo cambia tutto nella nostra riunione, nel nostro stare insieme. Tu non hai bisogno di più Chiesa, tu hai bisogno di più Dio. E Dio lo trovi in Chiesa, ed è per questo che abbiamo vissuto questo incontro dall'inizio, per dire: valorizziamo il tempo che abbiamo, perché è un tempo prezioso. Questo è il tempo di stare alla presenza di Dio, di meditare sulle sue verità. E ora qua, in questo verso che troviamo in Esodo 3, capitolo 34, versetto 29, noi leggiamo che Mosè scese dal monte Sinai. Scese dal monte Sinai e gli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante. Quest'uomo, dopo 40 giorni di digiuno, da cibo e acqua, il che è un miracolo già di per sé, doveva apparire miserabile. Non so se avete visto una persona digiunare dopo un giorno o due giorni. Già è miserabile. Pensate, dopo 40 giorni che un uomo non mangia e non beve, lui doveva apparire miserabile, invece appare nella bellezza più straordinaria e miracolosa che mai un uomo potrebbe ottenere. Perché? E lo leggiamo perché. Era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Un'altra versione dice: perché aveva parlato con il Signore. perché aveva parlato con il Signore, lui ha subito una trasformazione. Perché aveva dialogato con la luce, lui era diventato raggiante, luminoso. Come la luna riflette la luce del sole, così Mosè, ritrovandosi davanti alla luce in persona, dopo questo tempo prolungato alla sua presenza, non è rimasto più lo stesso. Non rimarrai più lo stesso alla presenza di Dio. E tutto quello che ti viene chiesto di fare dalla parola di Dio è parlare con Lui, dialogare con Lui. Vi siete mai fermati a vivere un tempo di preghiera dopo aver pregato per 3, 4, 5 minuti, aver esaurito tutte le parole e non sapere più che dire? E a quel punto pensare, ok, il mio tempo di preghiera è finito, ho dato tutto. Beh, quello è proprio il momento nel quale Dio ci porta a realizzare che quei 4 minuti e quei 5 minuti non servivano a niente. Perché Lui non vuole sentirci fare un monologo. Lui non vuole che noi abbiamo una successione incalzante di parole dove sfoghiamo tutto quello che viviamo e facciamo ogni richiesta per poi mettere un punto e tornare alla nostra quotidianità. Non è quello che Mosè ha vissuto. Forse lui ha pensato quando è salito sul monte, ma mi intratterrò qua una mezz'oretta. Dovrò fare un digiuno, allora forse una mezza giornata, ma poi è passato un giorno, poi sono passati 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni. E Dio invitava Mosè a rimanere. Cosa si sono detti? Beh, non può essere solo quello che ci viene riportato. 40 giorni e 40 notti Mosè è stato alla presenza di Dio ed è questa preghiera. Questa è preghiera. Questo è parlare con il Signore per poi subire una trasformazione. E allora il mio incoraggiamento per tutti noi, me per primo, questa mattina è: parliamo e dialoghiamo con il Signore. Stiamo alla sua presenza. Stiamo con Lui per diventare come Lui. Amen. Vogliamo alzarci. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Concentriamoci su di Lui. È qui presente. E ti ama. E ti vede. E Lui sa che sei qui per Lui. Lui sa che sei qui per Lui. Forse non sei venuto con tutte le intenzioni, forse non sei venuto con tutto il desiderio di abnegazione o di arresa o di devozione, però sei qui. Dio ti ha portato qui e non vuole che rimani seduto. Non vuole che rimani seduta. Ha un piano per te. Ha un cammino, ha una progressione, ha una corsa, delle vittorie per la tua vita. E tutto quello che ti chiede è: scegli me. Scegli me. A volte scegliere il Signore significa rinunciare ad altri. Forse qualcuno questa mattina deve decidere di cominciare un digiuno. Forse qualcuno questa mattina riconosce di essere troppo influenzato dai social, dallo schermo. Deve astenersi, deve sconnettersi, deve cancellare applicazioni. Forse qualcun altro deve semplicemente riconoscere che, sebbene la vita corre e il tempo è poco, c'è sempre del tempo che si può ritagliare per stare con il Signore. E devi cominciare da qui, da ora, da questo momento. Perché questo momento è prezioso ed è l'unico momento che abbiamo. Non sappiamo se avremo domani. ma abbiamo oggi. Non sappiamo dove saremo domani e se ci saremo domani. Abbiamo oggi. Abbiamo questo istante, abbiamo questo momento, abbiamo questa occasione. E avrà un valore glorioso e miracoloso se vissuto la sua presenza. Prego che il desiderio di ciascuno di noi possa essere quello di vivere il salmo che abbiamo letto. Alla fine del salmo il salmista dice: la mia anima si lega a te per seguirti. Cosa è legata la tua anima? Dio vuole sciogliere legami sbagliati in questo momento. Alleluia. E vuole legare le nostre anime a Lui per permetterci di seguirlo e somigliarli. Alleluia. Allora vogliamo pregare, ok? Vogliamo vivere un tempo di preghiera. Puoi rimanere da solo in un tempo di preghiera. Puoi anche andare da qualcuno. Se lo Spirito Santo ti suggerisce di andare da qualcuno, vai, prega, profetizza, incoraggia. Se vuoi preghiera da parte mia, puoi venire qui avanti. Sicuramente ho piacere nel pregare per te. Vogliamo stare con Lui. Diamoci qualche tempo per stare con Lui.